Come premessa a ogni altra cosa, Bloom liberò Steven dalla maggior parte dei truccioli e gli porse cappello e bastone, e in genere lo rimise in piedi alla maniera del buon samaritano, del quale servigio egli era in grande necessità. La sua mente, di Steven, non era proprio quel che si dice annebbiata, ma un tantino malferma, e in base a sua espressa richiesta di bere alcunché, Mr. Bloom, vista e considerata l'ora, e il fatto che non vi era a portata di mano nessuna pompa di acqua vetri da usare per le loro abluzioni, e meno che mai a scopo potabile, ricorse all'espediente di suggerire, sui due piedi, l'appropriatezza del rifugio del vetturino, come lo si chiamava, appena un tiro di fucile nei pressi del ponte Bat, dove potevano usufruire di qualche bibita e nella fattispecie di latte con seltz o di acqua minerale. Ma come arrivarci? Lì stava l'ostacolo. Una volta tanto egli rimase piuttosto imbarazzato, ma da poiché gli si imponeva chiaramente il dovere di prendere qualche misura al riguardo, egli prese a considerare gli acconci sistemi e il modo nel quale frattempo Steven sbadigliò ripetutamente. Per quel che egli poteva vedere, era alquanto pallido in volto, cosicché parvegli altamente consigliabile usufruire di un qualsiasi mezzo di locomozione che rispondesse alle loro esigenze presenti, essendo tutti e due fuori squadra, e particolarmente Steven, sempre nel caso che un tal mezzo fosse reperibile. Or dunque, dopo alcuni brevi preliminari, come spazzolarsi, ad onta dell'aver egli dimenticato di raccogliere il proprio fazzoletto alquanto saponificato dopo il valido servizio reso in materia di sbarbatura, un ulteriore spazzolamento, ambedue si incamminarono lungo Beaver Street, o più propriamente Beaver Lane, fino all'altezza del maniscalco, e nell'atmosfera particolarmente fetida delle scuderie all'angolo di Montgomery Street, di dove si incamminarono a mano manca, sboccando in Amiens Street, all'angolo di Dunbargin. Tuttavia, cosa di cui egli era certo fin da prima, non v'era traccia alcuna d'automedonti in cerca di clientela, se si eccettua un legno, probabilmente impegnato da alcuni gozzovigliatori adunati nell'interno del locale davanti al North Star Hotel, ed esso non dava menomamente a di vedere di volersi muovere un quarto di pollice, allorché Bloom, il quale era tutto meno che un fischiatore di professione, intrapresi a chiamarlo emettendo una sorta di fischio con le braccia arcuate sopra la testa due volte. Era un bel pasticcio, ma chi volesse invocare il buon senso non c'era evidentemente altro che fare buon viso a cattiva sorte e andare alla pedona, il che di conseguenza fecero. Così, girando dalla parte di Mallet della Signal House, che raggiunsero in breve tempo, fu loro gioco forza proseguire in direzione della stazione ferroviaria di Amiens Street, essendo Mr. Bloom ostacolato dalla circostanza che uno dei bottoni posteriori dei suoi pantaloni aveva, se si vuol variare il venerando adagio, subito la sorte di tutti i bottoni, per quanto, entrando completamente nello spirito della cosa, egli eroicamente se ne fosse fatto una ragione. Così, dato che nessuno dei due era particolarmente a corto di tempo, come si dava il caso, ed essendosi rinfrescata la temperatura con la schiarita subentrata alla recente visitazione di Giove Pluvio, essi s'avviarono lemme lemme per la strada, sorpassando il veicolo vuoto che attendeva senza cliente né fiaccheraio. Capitò poi che una vettura di servizio della Dublin United Tramways Company tornasse al deposito passando di là, e il più anziano dei due prese a parlare al suo compagno a propos dell'incidente relativo al modo veramente miracoloso in cui l'aveva poc'anzi scampata. Passarono dinanzi all'ingresso principale della stazione ferroviaria Great Northern, donde si parte per Belfast e dove, naturalmente, tutto il traffico era sospeso, data l'ora tarda, e oltrepassando la porta posteriore dell'obitorio, luogo poco attraente, per non dire estremamente tetro, specie di notte, giunsero da ultimo alla Dock Tavern e a tempo debito voltarono in Stour Street, famosa per il suo posto di polizia, sezione C. Tra questi luoghi e gli alti presentemente oscuri magazzini di Beresford Place, Stephen intraprese a pensare a Ibsen per una sua personale associazione di idee con Bird, il marmista di Talbot Place, prima svolta a destra. Mentre l'altro, che gli fungeva da fidus Achates, inalava con intima voluttà l'odore del forno cittadino di James Rourke, sito proprio vicino al luogo dove si trovavano. L'aroma, invero, appetentissimo del nostro pane quotidiano, di tutti i beni di consumo, il primo e il più degli altri indispensabile. Pane, sostegno della vita. Guadagnatevi il pane. Ditemi orsù, chi ha il pan di fantasia? Da Rourke il fornaio, dicono. A Ruth, al suo taciturno e, per non sottolineare troppo la cosa, non perfettamente lucido compagno, Mr. Bloom, che in ogni caso era nel pieno possesso delle sue facoltà, anzi, mai più di allora, in effetti, disgustosamente lucido, proferì alcuni consigli di prudenza riguardo ai pericoli inerenti al frequentare il quartiere dei bordelli, le donne di malaffare e i delinquenti di alto bordo, il che, appena scusabile una volta ogni tanto, non però come pratica ordinaria, finiva per essere una vera e propria trappola ferale per giovani della sua età, particolarmente ove questi avessero acquistato l'abito del bere sotto l'influsso del liquore, a meno di non conoscere un po' di jazz per qualsiasi evenienza, poiché anche con le spalle a terra uno ti può somministrare un vigoroso calcio se non tieni gli occhi aperti. Veramente provvidenziale era stata la comparsa sulla scena di Corny Keller mentre Steven si trovava in stato di beata incoscienza, e non fosse stato per quell'uomo, balzato nella breccia all'undicesima ora, la conclusione di tutto avrebbe potuto essere che egli fosse un candidato per il pronto soccorso, o, in mancanza di ciò, per la guardina, e susseguente comparsa in tribunale il giorno dopo davanti a Mr. Tobias, o, essendo egli procuratore, piuttosto, al vecchio Wall, voleva dire, o a Mahoney. E questo significava la morte civile per un individuo, se la cosa si risapeva. La ragione per cui toccava l'argomento era che un sacco di quei questurini a lui cordialmente antipatici erano risaputamente privi di scrupoli nel servizio della corona. E, come si esprimeva Mr. Bloom, rievocando un caso 2 della sezione A di Clanbrassil Street, prontissimi a giurare che la notte è giorno e viceversa. Mai dove ce ne sarebbe stato bisogno. Ma nei quartieri più tranquilli della città, Pembroke Road, per esempio, lì si vedeva bene i tutori della legge, in perucche ovviamente erano pagati per proteggere le classi abbienti. Un'altra cosa di cui discusse fu dell'opportunità di fornire o meno ai soldati armi da fuoco o armi bianche di ogni sorta, sempre suscettibili di lasciar partire il colpo, il che equivaleva ad aizzarli contro i borghesi ogni qualvolta nascesse tra di loro un malinteso. Si sprecava il tempo, egli sostenne con molto buon senso, e ci si rovinava la salute e anche la reputazione. E poi era un buttare i soldi dalla finestra, proseguiva. In quanto le donnine allegre del demimonde se ne scappavano con dei bei bigliettoni per soprammercato. E il pericolo più grave stava poi nell'ubriacarsi e con chi lo si faceva, benché volendo affrontare la questione molto discussa degli stimolanti, lui gustasse un buon bicchiere di vino vecchio se se ne presentava l'occasione, in quanto è nutriente e tonificante e dotato di virtù lassative. Specie un buon bicchiere di Borgogna, nel quale egli credeva fermamente, pure mai oltre un certo limite, arrivato al quale egli tracciava la linea di confine, perché oltrepassandola ci si esponeva ogni sorta di guai, per non dir nulla del ridursi praticamente alla mercé di altri. Più di tutto, commentò con riprovazione, l'abbandono di Steven da parte dei suoi confrères di ribotta, tutti salvo uno. Clamoroso esempio di squagliamento da parte dei suoi confratelli medici, date le circostanze. Quello poi era Giuda, disse Steven, che fino ad allora non aveva proferito motto. Discutendo di questi analoghi argomenti, traversarono in linea retta dietro la dogana e stavano passando sotto il cavalcavia della linea di circonvallazione, quando un braciere di carbone che bruciava di fronte a una garitta o a qualcosa di molto simile attrasse i loro passi alquanto stracchi. Steven, di sua iniziativa, si fermò senza nessuna ragione particolare a guardare il mucchio di pietre da lastrico scabre e alla luce che emanava dal braciere, poté appena distinguere la sagoma del guardiano municipale ancor più scura in fondo all'oscurità della garitta. Cominciava a ricordare ciò che era accaduto, o avevano detto che era accaduto prima, ma gli costò non poco sforzo il ricordarsi di riconoscere nella sentinella un ex amico di suo padre, Gamley. Per evitare l'incontro si accostò ai pilastri del cavalcavia della ferrovia. Qualcuno l'ha salutata, disse Mr. Bloom. Una sagoma di media statura, evidentemente allerta, sotto gli archi, salutò di nuovo gridando «Sera!». Steven, naturalmente, ebbe un soprassalto piuttosto vacillante e si fermò per restituire il complimento. Mr. Bloom, ispirandosi ai sensi di quella delicatezza che gli era propria, in quanto che egli sosteneva si dovesse sempre badare ai fatti propri, si scostò un poco. Ciò non di meno rimase sul chi vive, con una punta d'ansia, sebbene senza neanche tanto così di fifa. Per quanto insolito nella zona di Dublino, sapeva non essere del tutto inaudito che dei desperados, i quali non avevano praticamente nulla di cui vivere, andassero in giro ad appostarsi o in genere a spaventare pacifici pedoni, puntando loro una pistola alla testa in qualche località appartata fuori dell'area cittadina, vagabondi famelici. Come quelli che dormono sulla riva del Tamigi, potevano aggirarsi nei pressi, o semplicemente grassatori, pronti a battersela con quel bottino che in un lampo riuscissero ad aggranfiare con un colpo mancino, la borsa o la vita, lasciandoti là a servire da lezione, imbavagliato e legato. Steven, e precisamente quando il sopravvenuto fu a portata di mano, benché anche lui non fosse precisamente quello che si dice lucido, riconobbe l'alito di Coley, che oleggiava di succo di frumento fermentato. Lord John Coley lo chiamavano alcuni, e la sua genealogia poteva descriversi in questa guisa. Era il figlio primogenito dell'ispettore Coley della sezione G, defunto di recente, che aveva sposato una certa Catherine Brophy, figlia di un agricoltore di Louth. Suo nonno, Patrick Michael Coley di New Ross, aveva sposato la vedova di un taverniere del luogo, il cui nome da ragazza era Catherine, anch'essa Talbot. Si buccinava, per quanto senza prove, che costei discendesse dalla casata dei signori Talbot di Malahide, nella magione dei quali, in vero, un bel edificio nel suo genere e incontestabilmente degno di essere visto, la di lei madre, o sua zia, o comunque una parente, donna, si diceva in giro di estrema bellezza, aveva goduto del privilegio di servire nell'acquaio. Orbene, questa era la ragione per cui l'uomo, ancor relativamente giovane, per quanto già incallito nel vizio, che ora si rivolgeva a Steven, era definito da taluni inclini alla facezia Lord John Coley. Prendendo Steven da parte, egli aveva la solita pietosa storia da raccontare. Neppure un soldino per pagarsi da dormire. Tutti i suoi amici l'avevano abbandonato. Per di più aveva avuto una bega con Lenehan che egli definì, parlando con Steven, un taccagno porco fottuto, con altri non richiesti epiteti. Era senza lavoro e implorò Steven di dirgli dove in questa terra di Dio poteva trovare qualche cosa, qualunque cosa da fare. No, era la figlia della madre sguattera ad essere sorella di latte dell'erede del nome, o comunque erano apparentati per parte di madre in qualche modo, dandosi due casi allo stesso tempo, a meno che tutta la storia non fosse inventata di sana pianta. Comunque, era nei guai fino al collo. Non mi rivolgerei a lei, solo proseguì, che sono a terra, glielo giuro su quel che ho di più caro, e Dio lo sa. Ci sarà un lavoro domani o dopodomani, gli disse Steven, in una scuola maschile di Dalkey, come istitutore. Mr. Gareth Diesi, provi là, faccia pure il mio nome. Ah, oh, signore Dio, rispose Coley, amico mio, non sono tagliato per insegnare a scuola. Non sono mai stato uno di quelli brillanti, aggiunse con una mezza risatina. Mi hanno bollato 2 volte agli esami per il diploma medio dai fratelli cristiani. Nemmeno io ho un posto dove dormire, lo informò Steven. Coley di primo acchito fu incline a sospettare che il nostro Steven l'avessero cacciato fuori dell'ovile per averci portato una sgualdrinella trovata per la strada. C'era una casa dove affittavano camere in Marlborough Street da Mrs. Maloney, ma era solo un buco da 4 soldi e pieno di indesiderabili. Ma McConaughey gli aveva detto che si poteva trovare una sistemazione decente alla testa di bronzo in Wine Tavern Street, nome che ricordò vagamente Fra Bacon al suo interlocutore, per uno scellino. Moriva anche lui di fame, per quanto non ne avesse fatto parola. Per quanto la cosa si andasse ripetendo sera sì, sera no o giù di lì, pure Steven si lasciò in un certo senso trasportare dal sentimento, per quanto sapesse che la filastrocca nuova di zecca di Coley, né più né meno delle precedenti, non meritava certo molto credito. Ciò non di meno, aut ignarus malorum miseris succurrere disco, eccetera, come rileva il poeta latino, specie ora che la sorte voleva che gli fosse pagata la sua spettanza alla metà del mese, cioè il 16, data odierna, il che era incontestabile, benché egli avesse dilapidato un bel po' del conquibus. Ma il più bello era che nessuno avrebbe cavato dalla testa di Coley che lui nuotasse nell'oro e non avesse altro da fare che aiutare i bisognosi. Laddove invece. Si mise comunque la mano in tasca, non con l'idea di trovarci qualcosa da mangiare, ma pensando di potergli prestare qualcosa in quella vece fino a uno scellino o due, di modo che potesse comunque tentare di procurarsi di che mangiare a sufficienza. Ma il risultato fu negativo, poiché, con sua grande costernazione, trovò che gli spiccioli non c'erano più. Qualche pezzetto di biscotto fu il magro risultato della sua indagine. Fece del suo meglio per ricordare sul momento se li aveva perduti, come poteva benissimo essere, o lasciati da qualche parte, poiché l'evenienza non era una piacevole prospettiva, tutto il contrario, anzi, era troppo sfinito per procedere ad una ricerca sistematica, eppure cercò di rammentar qualcosa. Di quei biscotti gli balenò un vago ricordo. Chi dunque gliel'aveva dati? Precisamente dove era stato, o forse li aveva comprati. Comunque, in un'altra tasca gli avvenne di trovar ciò che egli all'oscuro suppose essere penny, erroneamente però, come fu palese in seguito. Sono mezze corone, amico mio, lo corresse Coley. E tali in effetti risultarono. Steven gliene prestò una. Grazie, rispose Coley. Lei è un signore. Glieli restituirò una volta o l'altra. Chi è quello insieme a lei? L'ho visto qualche volta al Bleeding Horse in Camden Street con Boylan, l'attacchino. Lei ci potrebbe mettere una buona parola perché mi prendessero là. Lo farei volentieri. L'uomo sandwich, è solo che la ragazza dell'ufficio mi ha detto che erano al completo per altre 3 settimane, amico mio. Signore Dio, c'è da prenotarsi, amico mio, come per le operette quando c'è la compagnia Carl Rosa. Io mi infischio di tutto comunque, purché trovi un posto, anche da spazzino. Susseguentemente, non essendo più le sue acque tanto basse, dopo quei 2 scellini e 6 pence che aveva buscato, parlò a Steven di un tale a nome Bax Kominski, che diceva lui, Steven conosceva benissimo, contabile da Fulham, il fornitore della marina, che capitava spesso nel locale riservato da Nagel insieme con O'Mara e uno marino che balbettava a nome Tyle. Comunque l'avevano pizzicato l'altra notte e gli avevano appioppato una multa di 10 scellini per ubriachezze e schiamazzi notturni e resistenza alla forza pubblica.